Augurando a tutti voi, cari ascoltatori, una serena e lieta giornata, i programmi di Radio Mater proseguono. Ora in onda quando il Signore parla al cuore. Commento sulle letture domenicali a cura di Vilma. Ecco, ecco carissimi, allora siamo qua per meditare sul Vangelo domenicale. Stiamo arrivando al momento cruciale, Domani Domenica delle Palme, che è chiamata anche la Domenica della Passione, perché si legge il Vangelo della Passione, quest'anno si leggerà secondo Marco. E questa giornata, questa Domenica delle Palme, segna la pagina più sconvolgente della storia dell'umanità, della storia della salvezza. Si parla spesso della storia della salvezza, ma di quale salvezza e di quale storia si parla? Della tua che ascolti, della mia che parlo, della nostra. Viviamo questa sconvolgente pagina in cui l'innocente, il più innocente degli innocenti, è stato condannato a morte. E di una morte ignominiosa. È salito sulla croce. Cosa vuol dire che l'innocente, che Gesù è salito sulla croce, lui innocente? Vuol dire che lui è salito lì dove avremmo dovuto salire noi, gli unici ad averlo meritato, e invece è salito lui, l'unico, a non averlo meritato. Qualcuno ha scritto, non ricordo chi, è terribile essere crocifisso, ma è molto più terribile averlo meritato. Allora guardiamo un po' alcuni punti, perché siccome c'è il Vangelo della Passione, il Vangelo lungo, non posso leggerlo, mi soffermerò su alcuni punti di questa condanna di Gesù. Vediamo che viene rivelata in modo drammatico, comunque sia, viene rivelata in modo drammatico la divinità di Gesù, la regalità, ma anche la divinità di Gesù. C'è questo processo, un processo finto, intentato contro Gesù. Lui non potevano giudicarlo, secondo la Torah non si poteva uccidere nessuno il giorno di Pasqua. E certo che davanti a questa vicenda ci viene da chiedere, ma chi è che dirige le operazioni di questo finto processo? E che comincia Pilato col chiedergli, ecco questa domanda, col chiedergli sei tu il re? Chi gliel'ha detto? Perché gli fa quella domanda in quel momento in cui è condannato come il peggior delinquente e gli chiede se è il re? Inconsapevolmente celebra la regalità di Gesù. Da dove vieni? E Gesù non risponde. Perché viene dal cielo, non si può rispondere secondo una carta d'identità umana, E Gesù non nega di essere re, ma dice il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. Allora, chi dirige le operazioni in questo caso? Chi ha la situazione in mano? ma è Gesù stesso, tutti gli altri sono delle pedine. Vi ricordate domenica scorsa? Gesù che dice: è giunta l'ora, e cosa dirò? Padre, liberami da quest'ora. Ma se è per questo che sono giunto. E quante altre volte non era l'ora e nessuno ha potuto prenderlo perché non era l'ora. È Gesù che si consegna, è Gesù che abbraccia questa volontà del Padre. E qui vediamo un agire dei giudei, dei sommi capi. E quella la bestemmia, sono loro che bestemmiano, perché veramente colpisce una cosa incredibile. Quando Pilato dice verso i giudei, dice: ecco il vostro re. E quindi Pilato lo proclama re, anche se in questo modo strano, Quindi Pilato intronizza Gesù quale re, ma dal versante opposto i giudei cosa dicono? Via, crocifiggilo. E Pilato: ma devo crocifiggere il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti. Notate bene, i sommi sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Incredibile, questa è la vera bestemmia, perché i sommi sacerdoti erano i dottori della legge che studiavano la Torah. Sapevano che loro erano il popolo eletto, erano il popolo scelto da Dio, il loro re era Dio. In questo caso si schierano con l'occupante romano, che non lo potevano vedere, e proclamano Cesare il loro re. C'è una profezia nel libro di Samuele che dice: hanno disprezzato me affinché non regni più su di loro. E c'è un commento di Van der Busch che è molto forte e che ci spiega questo atteggiamento dei sommi sacerdoti. I giudei replicano all'indirizzo del loro re: crocifiggilo. Con questo grido, eccoli definitivamente decaduti dalla qualità del popolo di Dio. Per Giovanni, quindi nel Vangelo di Giovanni che leggiamo, per Giovanni la morte di Gesù segna la fine del giudaismo, è una fine tragica. Nella morte di Gesù l'accecamento dei giudei è totale, essi sono divenuti questo mondo, soggetti al principe di questo mondo. E con questa dichiarazione che viene affermata questa realtà: non abbiamo altro re che Cesare. E sono i sommi capi, i gran sacerdoti che la pronunciano. E dice, cito, questa è una citazione che faccio, sempre Van der Busch, dice: ecco il popolo di Dio ridotto a una porzione dell'impero romano. Quindi è una apostasia del popolo giudei, di una parte, cioè i sommi sacerdoti, mica tutti i giudei hanno rinnegato Gesù, ma questi sì, questa classe sacerdotale considera Cesare unico re, va contro la Torah. È la frase più brutta che possa dire un ebreo, questa. E l'altro punto su cui vorrei soffermarmi e di cui vi avevo fatto le domande, vi ringrazio per quanti avete risposto tutti giusto. Queste domande vertevano sul cartello che è stato messo sulla croce di Gesù. Cartello scritto da Pilato, in cui Pilato fa scrivere Gesù Nazareno, re dei giudei, che poi è stata abbreviata questa scritta INRI in latino, che significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum, ma non è stata scritta solo in una lingua, è stata scritta in tre lingue, è stata scritta in latino, in greco e in ebraico, eh? E questo si spiega, conoscendo un po' la situazione di allora, la situazione sociopolitica di allora, eh? Quelle erano le tre lingue praticamente in uso in Palestina. In ebraico è chiaro perché la Palestina lo parlava, eh? In greco, perché nella Palestina vi era la famosa Pentapoli, l'altra volta vi ho parlato della Decapoli, le 10 città, invece la Pentapoli sono le 5 città che seguivano usi ellenici e le chiamavano le città elleniste perché volevano trasportare anche in Palestina la lingua, i costumi, l'architettura, ossia la civiltà greca. E quindi molti ebrei erano costretti ad imparare il greco per ragioni di commercio, di abitudine di vita, quindi il greco era conosciuto e chiaramente il latino, logicamente era posto in omaggio al popolo romano che dominava quella terra. Allora, qui c'è un modo misterioso in cui viene proclamata solennemente non solo la regalità, ma anche la divinità di Gesù. Allora, queste tre lingue rappresentavano il mondo religioso, culturale e politico-sociale che rendevano omaggio quindi al re in tutte e tre le lingue, per cui Gesù era comunque proclamato re universale dai popoli e delle culture. Perché lì erano quelle tre lingue che regnavano, no? Allora, se in latino Iesus Nazarenus Rex Iudeorum significava Gesù, re dei giudei, in greco, e adesso rispondo a una domanda che mi ha fatto Salvatore, come mai che se era scritto in tre lingue noi la vediamo sempre solo scritta cioè in latino? Ma perché noi qui siamo in paesi latini? Perché se andassimo in paesi greci non è scritta è scritta imbi, con la B, quindi la B sostituisce il rex nostro, in latino, e significherà re in greco. E in ebraico, pensate, in ebraico, cosa significano queste quattro iniziali? Abbiamo visto i giudei che hanno visto questa scritta, che si sono indignati e chiesero a Pilato, ma non scrivere sono il re dei giudei, ma che lui ha detto che era il re dei giudei. E Pilato qui è stato irremovibile. Ciò che ho scritto, e non potevano toglierlo perché era lui il governatore, nessuno poteva togliere quella scritta. Ciò che ho scritto, ma perché i giudei erano indignati? Perché le iniziali in ebraico hanno un ben altro significato che solo re dei giudei. Allora, le iniziali in ebraico, il nostro Jesus, sarebbe Yeshua. E l'iniziale è la Y. La seconda, Gesù Nazareno, lì in ebraico viene scritto con l'articolo davanti, A, con l'H, A, Nazir, na, I, quindi IH. La terza, Re, l'iniziale in ebraico, inizia con la doppia V. E la quarta, dei giudei, di nuovo, con l'articolo davanti, ha, con l'H davanti, a Yudim, dei giudei, con la H. Adesso io non so se avete notato cosa significa questa scritta, questo acronimo. Significa Yahweh, significa Dio, il nome di Dio. Viene drammaticamente rivelata la divinità di Gesù viene rivelato il sacro tetragramma attraverso queste iniziali, per cui i giudei si sono indignati contro questa scritta e volevano farla togliere. Furibondi, non potevano toglierla loro perché l'aveva messa Pilato, ma non sopportavano questa scritta. Quindi vedete a che punto il Signore, non so come dire, ha scritto dritto su righe storte, ha rivelato in quella situazione lì la divinità di Gesù, la regalità di Gesù. E i sommi sacerdoti notano subito questa differenza, perché dicono a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che gli ha detto sono il re dei giudei. E c'è questo mistero che ancora una volta l'ebraismo, posto di fronte ad una sublime rivelazione, si rifiuta di credere al Messia. È stato il procuratore romano Pilato che ha chiuso la contestazione e ha lasciato irremovibilmente il titolo che aveva fatto scrivere. Allora, l'altra domanda che ci possiamo fare davanti a questi passi sconvolgenti comunque è questa: Gesù doveva soffrire? Gesù doveva morire? Gesù non doveva assolutamente né soffrire né morire. E Gesù, dice San Tommaso d'Aquino, essendo il Dio uomo, quindi essendo il Dio uomo, capite bene che ogni suo gesto ha una portata infinita, ha un'efficacia infinita. Basta un sorriso, basta una parola, che è una parola divina, è un sorriso divino. Ci salva, ci strasalva. Quindi non era necessario che Gesù morisse in croce per salvarci. Cosa significa questo? Una cosa che non è necessaria, cos'è? È gratuita. Ecco la gratuità di Dio. Ecco la follia della gratuità di Dio. Se lui ci avesse salvato in altro modo, e ci avrebbe salvato veramente, se lui ci avesse salvato con un sorriso, con un gesto, con una parola, non avrebbe dato tutto, non avrebbe dato la vita, non avrebbe versato il suo sangue. E questa è rivelazione che Gesù è Dio, perché solo Dio, prima di tutto solo Dio l'Altissimo, Dio il Padre, dà tutto quello che ha, e tutto quello che ha il Padre è l'unigenito suo figlio, ne ha uno solo, non ne ha altri. Quindi ci dà tutto quello che ha. E chi ha perso un figlio unico sa cosa vuol dire privarsi di un figlio unico. Il Padre dà tutto quello che ha per salvarci. Questo lo dico per riconciliare un po' l'idea che si ha del Padre che abbandona il figlio a una morte così ignominiosa. Ma prima di tutto è lui che ce lo dà e ci dà tutto, E il figlio dà la sua vita. Bastava molto meno, ma lui ha voluto dare tutto. Dio dà tutto. Quindi se Dio l'Altissimo non avesse sacrificato il figlio, ci avrebbe salvati veramente, ma non avrebbe dato l'unigenito della sua stessa sostanza, non avrebbe dato il prediletto, lo splendore della sua gloria. Qui si fa sempre l'aggancio col sacrificio di Abramo e di Isacco. A un certo punto Isacco il Signore non gliel'ha chiesto, gliel'ha lasciato. Il figlio di Abramo l'aveva risparmiato, il suo no. Per noi ha dato tutto. Questa è la rivelazione di Dio. La morte di croce è una rivelazione di Dio, perché è andato oltre ogni limite. Nessuna persona umana sarebbe arrivata a tanto. Questo significa che è veramente Dio. E c'è anche un passo di San Francesco di Sales che dà una bella spiegazione di questa morte di croce. Dice: Dio non poteva fornire al mondo un altro rimedio che quello della morte di suo figlio? Certamente, egli poteva farlo. Poteva redimerci, salvarci in mille altri modi che non fossero la morte di suo figlio. Ma non l'ha voluto, e sentite questa frase che è di un'efficacia straordinaria, ma non l'ha voluto perché ciò che era sufficiente per la nostra salvezza non lo era per il suo amore. Ecco, vedete? L'amore da tutto. E per mostrarci quanto ci amava, questo figlio divino è morto della morte più dura e ignominiosa, quella sulla croce. E quindi qui entriamo nel tema, quale tema, quello che non piace a nessuno. Vedevamo l'altra volta i greci che dicevano a Filippo: vogliamo vedere Gesù. Insomma, fin lì è ancora facile, tutti siamo capaci di dire vogliamo vedere Gesù, ma per vedere Gesù fino in fondo dove dobbiamo guardare? Da che parte dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare dalla parte della croce, ed è lì che inciampiamo. Tutti vogliamo vedere Gesù, ma nessuno vuole guardare da quella parte, la croce. Ma la croce spaventa tutti, è spaventato anche Gesù, per carità, non è che non è mica un assoluto la croce e la sofferenza. E qui vorrei dare una spiegazione teologica, perché alcuni fanno confusione. Allora, quando Gesù ha detto se possibile passi da me questo calice, ma non la mia ma la tua volontà si faccia, allora Gesù, il dogma cristologico ci dice che Gesù è una persona, un io, è un io divino, Gesù non ha una personalità umana, ma c'è la natura umana, quindi avendo una natura umana ha anche una volontà umana, ha un solo io divino, ma ha anche una volontà umana, ha una volontà umana e una volontà divina. C'è stata un'eresia che si chiamava monotelismo, che sosteneva che Gesù avesse solo una volontà, quella divina, e quella è un'eresia. Gesù ha la volontà umana e la volontà divina, e in questo caso lo si vede chiarissimamente. Gesù con la sua volontà umana temeva questa morte di croce, al punto da chiedere: Signore, se possibile passi da me questo calice, ma ecco qui, no la mia ma la tua volontà. Vedete, la mia sarebbe la volontà umana. Gesù si è allineato immediatamente sulla volontà divina, Allora, questa morte di croce, ma poi non solo la morte di croce, tutta la vita di Gesù è stata una passione, è stato perseguitato fin da bambino, ha dovuto fuggire in Egitto, addirittura dai suoi è stato dichiarato un fuori di testa, dai giudei è stato addirittura dichiarato un indemoniato, perseguitato, il Vangelo stamattina o di ieri mattina, non mi ricordo, forse di ieri mattina, volevano lapidarlo, ma non era giunta la sua ora. Insomma, è stato continuamente perseguitato, quindi la vita di Gesù è stata un'unica sofferenza. Quindi entriamo nel tema della sofferenza. Allora, perché la sofferenza? Perché la sofferenza ci dà una marcia in più. Finché non siamo feriti, come diceva un sacerdote, finché non siamo feriti non saremo mai compassionevoli, ma quando si aprono delle ferite noi capiamo quanto bruciano, quanto sono dolorose, e allora diventiamo compassionevoli verso tutti i feriti che incontriamo. La compassione passa attraverso una ferita, ed è questo che ci aiuta a stare assieme gli uni gli altri. Possiamo stare assieme nella misura in cui abbiamo compassione gli uni degli altri e nella misura in cui accettiamo le differenze. È questo la Chiesa, è l'incontro tra persone differenti. Infatti all'inizio della Messa diciamo: confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato. Non andiamo a guardare gli altri, i peccati degli altri, ma guardiamo la nostra vita e vediamo se siamo sinceri, che questa vita ha momenti bui, ha momenti in cui non portiamo frutto, però l'importante è dare spazio all'aspetto positivo della nostra vita. E quindi la vera preghiera, la vera preghiera che possiamo fare è questo: fa che siano uno, come diceva Gesù nella preghiera sacerdotale, che tutti siano uno, che al di là delle differenze noi sappiamo ritrovare questa unità. Qual è questa unità? Siamo tutti figli dello stesso padre, siamo tutti fratelli, ma perché ci perseguitiamo? E quindi la preghiera è la cosa più importante che ci sia per rimarginare le ferite, per ritrovare questa unità. La chiesa più importante, sentivo quel giorno che diceva Don Barsotti, la preghiera è una cosa straordinaria. Io mi alzo al mattino e posso addirittura parlare con Dio, ma altro che diventare cardinale, fare un concilio, anche diventare papa. Ma io mi alzo al mattino, sono già più che papa, perché mi metto direttamente in comunicazione con Dio, eh? Quindi è questo che dobbiamo fare. E sapete che la preghiera cos'è? È anche una lotta, è anche un combattimento spirituale. La preghiera passa attraverso le potature, Dio ci pota perché portiamo più frutto. E il combattimento spirituale non è riservato a qualcuno, ma è di tutti. Tutti nella Chiesa siamo chiamati a questa lotta spirituale contro gli aspetti negativi che ci abitano. E questa lotta ha come unico obiettivo quello di far emergere la parte migliore di noi stessi. E diceva sempre un Barsotti, straordinario, diceva, noi abbiamo delle intere zone del questo non lo diceva lui, questo lo diceva Bicchi, mi confondo, delle intere zone del nostro cuore che non sono evangelizzate, no? Ma diceva Barsotti, non siamo noi capaci a purificarci da soli fino in quelle radici profonde, non le vediamo neanche. Allora il Signore permette le umiliazioni, permette, quelle ci liberano da questo io. Lui dice, raccontava un po' la sua esperienza, diceva che è stato veramente contrastato, incompreso, eccetera. Ha detto, ma se fossi stato capito fin da subito, mi avrebbero fatto arciprete e sarei stato lì e non avrei né fondato una comunità né scritto centinaia di libri, e ho dovuto morire al fatto di diventare arciprete, e quello è stato il chicco di grano che poi ha prodotto una spiga, 100 spighe, 1000 spighe, eh? Quindi vedete che la sofferenza noi non la capiamo, non la vogliamo, ma è quella che ci rende più a immagine di Dio, ci libera da tutte le nostre i nostri egoismi, i nostri egocentrismi, tutto quello che si oppone ad essere immagine di Dio. Ecco carissimi, allora per questa meditazione sulle palme vi lascio a questa contemplazione, mettetevi in silenzio davanti al Signore e ringraziatelo di tutto quello che ha fatto per noi, più di così non poteva fare. Adesso vi do il compito a casa per la settimana prossima, non vi do i riferimenti perché questi sono veramente molto semplici, molto facili. Allora, prima domanda, chi corse al sepolcro il sabato di buon mattino? Seconda domanda, quali altri due discepoli corsero al sepolcro? Terza domanda, chi arrivò per primo e chi entrò per primo? Ecco carissimi, allora mi potete sempre scrivere presso Cappella della Salette, 11010 Saint-Pierre, Aosta, oppure richiedermi libri, la meditazione di oggi a pagina 45 del mio libro Risplenderemo come stelle, sono i commenti ai Vangeli Domenicali, ci sono anno A, B, C, a questo numero 338753837, oppure scrivermi via mail a vilmawv.c@cursillosnovara.it. Ciao a tutti, ci sentiamo sabato prossimo alle ore 8:55. Fatta uno di noi, ma mostraci il tuo volto, Signore. Beati quelli che ascoltano. Abbiamo trasmesso Quando il Signore parla al cuore, commento sulle letture domenicali a cura di Vilma.